sentiamo fragili, forse un po' più deboli di quando siamo partiti tempo fa. Meno consapevoli di dove stiamo andando, ma senza ritorno, senza via. Ogni posto è un mondo nuovo, ogni profeta ci porterà verso la coscienza di una nuova identità. Se vuoi restare, resta, io parto insieme a voi, uomini liberi, vagabondi, eroi. Pezzi di vita dimenticati e la voglia di perdere la monotonia dei giorni. Lasciati vivere, ho un pensiero fisso nella testa, è la voglia di scappare, scappare via. Ogni posto un mondo vuoi cercare, ogni verso un libro da riscrivere. Il sonno della vita che ti può fermare, che ti può fermare. Fa male non svegliarsi, sempre più semplice è pestando i propri passi, sempre più semplice è, più semplice è, più semplice è, più semplice è, molto più semplice, più semplice è, più semplice è, più semplice è, molto più. Il viaggiatore piega il passo alla sua posa, non ripone mai l'ardore, ride in faccia ogni cosa, guarda verso l'infinito, ruba gocce d'allegria, leva il vento con il dito, ma non dorme mia. Guarda verso l'infinito, ruba gocce d'allegria, leva il vento con il dito, ma non dorme. Fa male non svegliarsi, sempre più semplice è, pestando i propri passi. Sempre più semplice è, più semplice è, più semplice è, più semplice è, molto più semplice. Più semplice è, più semplice è, più semplice è, molto più semplice.